Qualche giorno fa stavo mandando un messaggio su un gruppo WhatsApp per invitare a vederci per una riunione organizzativa. Ragazzi, sarebbe importante che ci vedessimo al più presto per organizzare tutte le cose che abbiamo in programma. Prima di inviarlo mi sono fermato un attimo e ho ripensato ad un video che avevo visto proprio qualche giorno prima. E così ho riletto il messaggio e ho analizzato le parole che avevo usato, il come avevo scritto quel messaggio e soprattutto il tono che poteva trasparire da quelle parole, da quel messaggio. Così ho cancellato e ho riscritto completamente il messaggio e ho scritto così: ragazzi, che ne dite? Riusciamo a vederci allora per organizzare quelle cose di cui avevamo parlato? Che ne dite di quel giorno? Vi sembra che vada bene? Martedì alle 21? Fatemi sapere. Il video che avevo visto è di Adam Grant, si intitola Il potere della comunicazione impotente. In inglese il gioco di parole è ancora più efficace: The Power of Powerless Communication. Di che si tratta? Quando parliamo di comunicazione, solitamente la associamo all'idea di efficacia. Voglio dire, chiunque comunichi, chiunque ha il desiderio di comunicare qualcosa, ha anche il desiderio che quella comunicazione sia efficace, arrivi a buon fine. Per cui utilizziamo spesso espressioni di questo tipo, diciamo la forza di quel discorso, la forza di quel messaggio, la forza di quello slogan. La forza, spesso leghiamo l'idea di comunicazione efficace all'idea di forza. Altro esempio, immaginiamo di dover fare un discorso in pubblico, di dover esporre la nostra idea ad un gruppo di persone durante una riunione. La nostra cultura ci suggerisce di essere sicuri, decisi, assertivi, comunicando le nostre credenziali, la nostra esperienza, la nostra competenza. In una parola, la nostra cultura ci suggerisce ancora di essere forti. Ma forse esiste un modo ancora più efficace di comunicare, che non parta dall'idea di forza, ma dall'idea di debolezza. Adam Grant suggerisce di sostituire tre componenti che solitamente sono legate all'idea di forza con altrettante tre componenti legate invece all'idea di debolezza. Eccole: invece di far leva sui punti di forza, provare a far leva sui punti deboli, sulla debolezza. Invece di far leva su un tono assertivo, provare a mettere in campo un pochino di incertezza. Invece di fare sempre affermazioni sicure, dare risposte certe, mettere in campo qualche domanda in più. Vi devo dire che quando ho visto questi tre elementi sono rimasto abbastanza basito. Com'è possibile che punti deboli, incertezze, domande possano mettere in atto una comunicazione ancora più efficace invece di una comunicazione che si basi su punti di forza, su certezze, su affermazioni? Seguendo tutto il ragionamento, però, devo dire che alla fine Adam Grant mi ha convinto. Provate a seguirmi anche voi, sono sicuro che alla fine ne sarete altrettanto convinti. Primo punto: mostrare le proprie carenze, le proprie debolezze. Si tratta del cosiddetto effetto pratfall. Pratfall significa cadere per terra. Immaginatevi di cadere e prendere una bella sederata. Questo effetto caduta è stato messo in luce da uno studio effettuato nel 1966 dall'Università del Minnesota. Questo studio dice che compiere un errore di fronte agli altri ci rende più simpatici. Durante quello studio veniva chiesto ad un gruppo di persone di valutare quanto fossero simpatici i partecipanti ad un concorso. Alcuni di questi partecipanti si comportavano in modo impeccabile, altri invece a un certo punto si rovesciavano una tazzina di caffè addosso. Indovinate un po', le persone che si erano rovesciate addosso il caffè risultavano più simpatiche, più piacevoli degli altri. Come mai? Beh, perché il fatto che avessero fatto un errore le faceva diventare più umane, le faceva sentire più vicine e quindi più simpatiche. Alcuni di noi, a volte capita anche a me, sono ossessionati dal fatto di poter commettere qualche errore davanti agli altri, e forse questo è anche alla base di quella paura così diffusa in tantissime persone, la paura di parlare in pubblico, di mostrarsi in qualche modo deboli, vulnerabili, di fare qualche errore che li metta in ridicolo. In realtà fare qualche errore non è la morte di nessuno, anzi ci rende più simpatici, ci rende più vicini alle persone che sono davanti a noi. Invece chi non commette mai un errore, dite la verità, non pensiamo a volte che sia un po' snob e antipatico? Attenzione però, tutto questo discorso è valido ma a due condizioni. Primo, un conto è se godi già di una certa credibilità, un conto è se sei ancora considerato un principiante. Voglio dire, se un esperto si rovescia il caffè addosso, allora possiamo pensare, wow, è una persona umana, anche lui fa degli errori nonostante sia un esperto. Se invece è un principiante a fare un errore, allora le persone potrebbero pensare, ecco, non soltanto è un principiante, un incompetente, ma non sa neanche tenere una tazzina di caffè in mano. Secondo, l'effetto caduta può causare vicinanza ed empatia, soprattutto se riguarda un aspetto non legato direttamente alla tua competenza, al tuo ambito di azione. Quindi se sei un premio Nobel per la fisica e ti rovesci del caffè addosso è un conto, se invece sbagli un'equazione di primo grado allora forse l'effetto umanizzante è un po' meno garantito. In realtà io penso anche un'altra cosa, se un mio professore alle superiori sbagliava qualcosa nel fare un esercizio alla lavagna e magari qualche alunno glielo faceva notare e lui riconosceva il proprio errore e dava il merito a quell'alunno che gliel'aveva fatto notare, beh, in quel caso credo che davvero comunque quell'errore lo umanizzasse, lo rendesse più vicino e più simpatico agli studenti. In sintesi, quando comunichiamo con gli altri possiamo stare tranquilli, possiamo permetterci il lusso di fare qualche errore e magari anche di metterlo noi stessi in risalto, perché questo ci umanizza, ci rende più vicini agli altri, crea fiducia e crea empatia, che poi in fondo è quello che tutti noi abbiamo sempre saputo, che una giusta dose di autoironia può servire a farci scendere dal piedistallo, a farci sentire, a farci percepire dagli altri più umili e quindi a creare vicinanza ed empatia. Rimanete sintonizzati iscrivendovi al canale e attivando la campanella delle notifiche, anche perché nei prossimi due video vedremo gli altri due elementi del linguaggio della comunicazione impotente, ovvero il potere del linguaggio incerto e il potere di porre domande.